affittava in nero 17 delle sue 40 case di proprietà ad immigrati. Poi però il pensionato milionario aveva avuto anche il coraggio di chiedere aiuto ai servizi sociali per avere prestazioni agevolate, dichiarando un patrimonio mobiliare e immobiliare pari a zero, nonostante disponesse, oltre che di 40 case, di 19 conti correnti per un patrimonio di 2 milioni e mezzo di euro. È il caso più eclatante di una vasta operazione che riguarda gli affitti in nero portata avanti da mesi a Padova, dove continua una felice collaborazione, unico caso in Italia, fra Guardia di Finanza, Prefettura, Comune e Università. Vittime spesso gli immigrati clandestini, come spiega il colonnello della Guardia di Finanza, Ivano Maccani. Lui e i figli dispongono di 42 fabbricati, 14 terreni, hanno investito in titoli oltre 2 milioni e mezzo di euro, per cui nonostante questo patrimonio milionario affittavano appartamenti in nero, talvolta anche ad extracomunitari irregolari. Il fenomeno è esteso, non riguarda solo Padova. In Italia il sommerso accertato nel settore degli affitti in nero è di 12,8 milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.